che ti moia e se muoi te mola, aman te mola, aman te mola. Ti te molesco e se muoi te mola, aman te mola, aman te mola. Che ti moia e se muoi te mola, aman te mola, aman te mola. Te molesco e se muoi te mola, aman te mola, aman te mola. Te molesco y se muy te molesco.